mi ritrovo sul letto di fronte alla finestra, mi rannicchio sul petto, fuori c'è l'orchestra silenziosa. Ma cosa stai pensando? Momenti bui in cui andavo incontro, entro nell'antro oscuro dei ricordi, apro portici austici, visioni forti, torti subiti, morti gli auspici, illustri spariti, astri eternatrici. Esploro i cassetti, raietti di quei tempi, lembi lacerati, rivivo vecchi tormenti, analizzo eventi oramai sepolti, tolti, cancellati, andati, ma mai morti. Allora io a denti stretti spengo incendi che mi bruciano, ricordando tradimenti, intanto nuovi venti, zeffiri annunciano, nuovi pensieri, sentieri mi assalgono. Ricordi risorti nella mente vanno e vengono, momenti alterni che imperterriti passano, ricordi alla base della disperazione che possono portare alla distruzione. Vivi e non ti accorgi di momenti giornalieri che passano lasciando vuoti troppi sentieri, vero scorrere pensieri inesorabili che riaffiorano in atti melodrammatici. Momenti tristi ti scorrono davanti, zitto rivedi i momenti laceranti, pilastri portanti di vita passata che sfociano in illusione infinita. Da cronista narro felicità e tristezza di situazioni vissute in ampiezza, incertezza che ricordi per sempre, anche se a volte risulta straziante. Mi ritrovo in piedi, appoggiato sul balcone, mente serena, è appena sbocciato un fiore di bei ricordi, ma antica gente che colpirono il mio animo inerme come un fulmine che passa invisibile, percorre in pace un percorso indelebile, irripetibile, partito dall'oblio, una salita ripida che mi portò a Dio. Tamigi, Trifogli, Praga, i licei, corsi vari attimi che riviverei, ma non riesco a capire la condizione umana. Viaggio finito e lo stagio è fuori tanto, ma la parte più strana è meravigliosa, è che basta un'immagine e rivivi quella storia. Zero malinconico, ma esprimo, è vivo, sono un cronista, imprimo ciò che scrivo. Nostalgia.